Io cercherò di essere breve. Nella filosofia kantiana il giuramento è attraversato da una pluralità di saperi e da accenti eminentemente illuministici. Centralmente viene richiamato nella filosofia della religione, della morale e del diritto, ma non mancano significativi accenni nell'antropologia e negli scritti politici. Secondo i testi nei quali è introdotto, e come sue articolazioni in metafore, permette di valutare come la filosofia critica inerisce alla modernità. Mostra come criteri morali universali possono applicarsi sia al giudizio delle intenzioni, sia alle tipologie di condotta di vita sostenute dalla religione, dalla superstizione o dalla ragione. Mentre negli scritti di religione e di morale l'analisi del giuramento si raccorda con i testi sacri, il Vangelo Matteo, il libro di Giobbe e la lettera di Paolo ai Romani, negli altri, senza questo riferimento, il giuramento assertorio, promissorio e di fede viene ragionato sia in relazione al tipo di rapporto con la divinità che esso presuppone, sia in relazione al tipo di posizione nel tempo che esso impegna, verso il passato o verso il futuro. Kant propone nei giuramenti di ufficio di sostituire il giuramento promissorio col giuramento assertorio, di rimettere e rovesciare l'atteggiamento verso il futuro in un atteggiamento verificabile in un futuro passato. Desacralizzato e temporalizzato, il giuramento delimita la costituzione di ambiti di agire e in essi di orizzonti di aspettative. L'analisi kantiana dell'istituto consente di vedere come le dottrine e gli ambiti tradizionali di scuola che costituivano il rapporto tra Dio, uomo e mondo subiscono una metamorfosi nelle relazioni critico-razionali istituite secondo il concetto cosmico di filosofia. I problemi sollevati dalla metamorfosi del giuramento sono ovviamente legati all'orizzonte costituito dalla filosofia critica e si riferiscono ai problemi dell'identità, della verità e del dovere, dell'intenzione e della responsabilità. Il richiamo a questi concetti non può essere inteso in senso generico e retorico. Col giuramento Kant esemplifica ed esamina la possibilità del passaggio dalla sfera della coscienza alla sfera del diritto. Nel nocciolo etico-giuridico di questo passaggio si può leggere, secondo un'indicazione di Trench, la relazione che si stabilisce tra i due tipi umani del mondo moderno, l'uomo di mondo e l'uomo delle professioni, tra etica e moralistica, tra prudenza e fortezza. Nel loro tramite, il rapporto uomo-Dio entra a comporre il rapporto uomo-uomo in una prospettiva mondanizzata. Il regno della grazia diventa mondo intellegibile, ossia morale. È significativo in questa metamorfosi la presenza dell'immagine del tribunale. Secondo alcuni studiosi, indice di una filosofia della storia che, nata dalla crisi della teodicea di Leibniz, minaccia il mondo della vita. Per riprendere un'espressione cara agli storici del giuramento, si può considerare l'istituto come una sorta di snodo ermeneutico dei rapporti tra religione, morale e diritto, tra fede e superstizione, e più ravvicinatamente all'interno del diritto tra diritto pubblico e privato, tra Stato naturale, Stato sociale e Stato civile, tra equità e giustizia, tra fantasticheria e razionalità della colpa e della pena. I testi in cui essenzialmente la tematica del giuramento si rinviene sono le lezioni di etica, nelle loro varie trascrizioni, il saggio sulla teodicea, la religione, la metafisica dei costumi e l'antropologia. Nelle lezioni l'accento è posto sull'esigenza della differenziazione morale-diritto e delle connessioni di questa differenziazione con la metafora e l'analogia del tribunale. A queste connessioni va ricondotta la tematica richiamata nella Teodicea del giuramento e della falsa coscienza. Il saggio è importante per discutere la tesi di Odo Marquardt sulla tribunalizzazione della coscienza nella seconda metà del Settecento. La prudenza, la saggezza pratica, è qui il tribunale della falsa coscienza, incapace di connettere, secondo il progetto moderno, scienza e morale, religione e condotta di vita. Nella metafisica dei costumi, il giuramento tipologizza ed esemplifica la differenza tra diritto pubblico e diritto privato, tra morale e diritto, tra morale e religione. Esso consente altresì di vedere la differenza tra antichi e moderni e tra uomini e cittadini. Nel riferirsi all'immagine del tribunale, Kant costituisce l'identità moderna del sé con un altro. Questa connessione per il rapporto che instaura tra foro interno e foro esterno interessa non solo la prospettiva ermeneutica indicata da Paul Ricoeur, ma anche il problema della ricostruzione storica della modernità. Nell'antropologia, il giuramento è il mondanizzato indicatore della determinazione umana, di ciò che l'uomo fa di se stesso. Esso è posto come equivalente del carattere, una forma che oltrepassa le tipologie di uomo determinate dalla natura e che si richiamavano alla dottrina del temperamento e alla formulazione della condotta di vita improntata secondo quella dottrina. Nel testo della religione, intorno al quale delimitiamo l'intervento, il profilo del giuramento riguarda il rapporto tra religione, morale e diritto. I tratti messi in rilievo sono la razionalità entro cui è compreso il giuramento, l'antidivino tra ragione pura e ragione comune, la fonte religiosa che concorda con tale razionalità, e infine il commento e gli indicatori concettuali che si invengono e che consentono di indagare gli altri testi secondo un filo conduttore, sia interno alla speculazione kantiana, sia all'esterno nella storia moderna del giuramento. Nell'ultimo capitolo della religione, dedicato al culto, Kant, nell'esporre la religione cristiana come religione naturale, mette il divieto del giuramento tra le dottrine evangeliche che rendono il cristianesimo documento indubitabile di una religione in generale. Le dottrine a cui Kant si riferiscono sono tratte tutte dal Vangelo Matteo 5:17-48 e riguardano l'intenzione, il peccato, la santità, la riparazione, il pentimento, la tolleranza e la legge. Esse, secondo Kant, confluiscono nella pura religione razionale. Queste dottrine, gli dice, non possono evidentemente essere altro che insegnamenti della ragion pura, perché questi sono i soli che si provano da se stessi e sui quali principalmente è necessario fondare l'autenticità di tutti gli altri. Per l'indagine intorno a questi insegnamenti bisogna condurre una discussione in confronto alla sezione seconda e terza del capitolo secondo della dottrina trascendentale del metodo della critica della ragion pura. Come fonte concordante con la base razionale del divieto del giuramento, Kant cita il celebre passo 34-37 del Vangelo Matteo, dove si fa la differenza tra giuramento veterotestamentario e neotestamentario. Cito il passo di Matteo perché è il passo che Kant richiama in tutte le altre opere che ho citato. Si legge nel passo: avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Variamente i teologi e gli studiosi di ermeneutica sacra hanno analizzato questo passo. Storicamente si fa risalire, oltre che alla denuncia di Christian Thomasius, alle tradizioni etico-religiose dei cristiani radicali la contestazione del giuramento in riferimento al contenuto di tale fonte. Il commento di Kant è il seguente. Non si capisce bene, annota Kant, perché questa manifesta proibizione di un mezzo costrittivo, basato sulla pura superstizione e non sulla coscienziosità, usato davanti ai tribunali civili per ottenere disposizioni veridiche, sia ritenuta di così tenue importanza dai dottori della religione. Che infatti la superstizione sia la cosa della cui influenza in questo caso si fa il maggior conto, lo si riconosce dal fatto che mentre si ritiene un uomo incapace di dire la verità in una deposizione solenne, sulla cui veridicità si basa la decisione del diritto degli uomini, poi si crede che egli sarà invece spinto a dirla per mezzo di una formula, la quale, oltre la dichiarazione stessa, non contiene altro che le parole con cui egli invoca su se stesso i castighi divini, ai quali del resto, a causa della sua menzogna, egli non può sfuggire. Quasi come se dipendesse da lui di rendere o di non rendere conto davanti a questo tribunale supremo. Nel passo citato dalla scrittura, questa forma di asserzione giurata, dice Kant, è rappresentata come la temerità assurda di voler rendere, per così dire, reali, mediante parole magiche, cose tuttavia superiori al nostro potere. Ma si vede bene, dice ancora Kant, che il saggio maestro, il quale in questo passo ci avverte che tutto quanto diciamo, oltre il sì, sì, no, no, come attestazione giurata della verità, viene dal male, aveva sotto gli occhi le triste conseguenze che i giuramenti trascinano con sé, che cioè la troppo grande menzogna, la troppo grande importanza loro attribuita, rende pressoché autorizzata la menzogna comune. Anche per il Kant della religione, il giuramento è, secondo un concetto caro agli illuministi, una superstizione che autorizza la menzogna e falsifica la posizione di chi giura, sia di fronte al Tribunale Supremo, sia di fronte al Tribunale Civile. Vorrei sottolineare qui l'opposizione kantiana tra superstizione e coscienza, in base alla quale si comprende l'argomentazione kantiana contraria al giuramento. Di fronte al Tribunale Supremo la posizione di chi giura è falsa e contraddittoria e il giuramento è una superstizione perché non è nei poteri di chi giura scegliere di rendere o non rendere conto della menzogna, di separare intenzione e responsabilità. Di fronte al Tribunale Civile la posizione di chi giura è falsa e contraddittoria e il giuramento è una superstizione perché la sua formula non contiene altro che l'assicurazione contraddittoria di chi è ritenuto incapace di dire la verità, di essere responsabile di rispondere della propria intenzione. Ciò che è in questione davanti a entrambi i tribunali, come si legge nello scritto che cos'è l'illuminismo, è l'uso della ragione in tutto ciò che ha a che fare con la coscienza. Il giuramento, per un verso, ha a che fare con la coscienza, per un altro, e qui l'immagine del tribunale peculiare, ha a che fare con il diritto. Speculativamente e storicamente nel pensiero come nella storia, il giuramento, come dice Paolo Prodi nel suo studio, è il medium del passaggio dalla coscienza al diritto. Questa posizione di Kant ricade all'interno della vicenda cristiano-moderna del giuramento e articola una connessione razionale tra Dio, Stato e società, tra religione morale da una parte e politica e diritto dall'altra. Variamente, secondo le ricerche che risalgono a Max Weber, Tresch, Ullmann, si mostra come il giuramento inerisce alla storia del mondo moderno. Il giuramento rischiara la nascita della città e la figura del cittadino, connota insieme al battesimo sia le tipologie di sociale che sottendono a chiesa e setta, sia l'atteggiamento spirituale che consenta la nascita delle scienze della natura e dello sviluppo economico capitalistico. Su questo sfondo si può delineare l'orizzonte di aspettativa aperto dalla filosofia critica verso il significato concettuale del giuramento e la sua funzione di disciplinamento sociale. Secondo tale orizzonte si può dire che il giuramento si mostra storicamente e filosoficamente concepito all'interno di una composizione teologico-politica, un dualismo istituzionale non tessuto e rischiarato dalla differenziazione tra diritto e morale. Per le sue origini divine il potere rappresentava la volontà di Dio e mediante il giuramento includeva tale volontà nell'ambito del mondo, negando quella differenza che giunge a fondare modernamente il rapporto tra Chiesa e Stato, tra interno e esterno, tra coscienza e comportamento. Una conseguenza non delle minori era quella di negare o comunque di limitare anche nelle massime figure della costruzione filosofica della modernità, da Hobbes a Locke, la figura di cittadino all'ateo virtuoso, perché incapace di giurare. Kant richiama il problema nel Naturrecht di Feyerabend e certamente anche su questi aspetti va valutata la sua denuncia del giuramento come violazione della libertà umana. Mi fermo qui, grazie. Grazie al dottor Pirillo.